e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti, buon inizio settimana, buon lunedì. Riflettiamo oggi sulla strage dell'Airbus russo caduto in Sinai. Come tutti i disastri dei cieli, ha indubbiamente scosso tutti noi, no? La paura di attacchi terroristici ci fa rivivere quella sensazione di impotenza e anche di insicurezza, ci sentiamo svuotati, scarichi di fronte al riaffiorare di paure che avevamo accantonato o che forse pensavamo sopite. In realtà la paura, lo sappiamo bene, è intrinseca all'uomo, fa parte per così dire del nostro DNA, ci appartiene dal tempo dei tempi. C'è chi ha paura del buio, chi ha paura di volare, chi di restare vittima di un attacco terroristico, chi ha paura per le persone che ama, chi ha paura di avere paura. Ne parliamo tra poco a Cuore Denari. 800 24 00 24, scagli la prima pietra chi non conosce la paura e faccia altrettanto chi, pur credendo di essere un leone, si è comportato da pecora. Stavo riflettendo se è mai capitata questa occasione nella mia vita. Adesso magari ci rifletterò nella prima parte di Cuore Denari. Anche lo straniero, no Nicoletta, in molti casi fa paura. È in vero, Italia. È un tema molto delicato, ma sarebbe da affrontare. Poi al tuo ospite magari farò un blitz con una domanda. Sappiamo però, e questo pure è vero, che al di là dei pregiudizi ci sono tanti nuovi italiani che sono perfettamente integrati, lavorano sodo, in molti casi fanno anche impresa, danno un contributo riconosciuto, pienamente riconosciuto dai nostri connazionali e che aiuta a superare le differenze e le diffidenze. Quando si tratta di cercare casa, di mettere su un'attività, gli stranieri, così come gli italiani, si trovano però a far fronte, esattamente come succede anche a noi, a difficoltà, complicazioni legate alla burocrazia che talvolta nel loro caso sono accentuate dalle fatiche legate alla lingua e alle differenze fra la nostra legislazione e quella dei paesi d'origine. È un bisogno che è stato intercettato da una categoria che spesso è presente qui a Cuore Denari, quella dei notai. Il notariato ha infatti lanciato questa guida tradotta in 13 lingue dal titolo Abitare e fare impresa in Italia. Allora noi oggi affrontiamo insieme questi temi aprendo le nostre linee all'800 24 00 24 a tutti gli ascoltatori che hanno un'origine straniera e si confrontano quotidianamente con i temi del lavoro, dell'impresa e della casa, ma naturalmente anche a tutti coloro che vivono a stretto contatto con una persona arrivata da lontano che aiuta in casa, che lavora con noi semplicemente magari perché è vicino di casa o un amico e che vorranno naturalmente farsi portavoce delle sue esigenze. Allora, se volete scriveteci anche al 349-238-6666, vi aspettiamo. Il problema è che abbiamo paura, basta guardarci. Viviamo con l'incubo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo costruito possa distruggersi. Con il terrore che il tram su cui siamo possa deragliare. Paura dei bianchi, dei neri, della polizia e dei carabinieri. Con l'angoscia di perdere il lavoro, ma anche di diventare calvi, grassi, gobbi, vecchi, ricchi. Con la paura di perdere i treni, di non arrivare in orario agli appuntamenti. Stiamo ascoltando, te lo ricordi, Deborah, l'avrai vista anche tu, un estratto di Happy Family. Sì. E mi sembra un'occasione per straordinaria, no? Per introdurre il tema della prima parte di Cuore Denari. La paura, spesso preferiamo fare finta di niente, nascondiamo le nostre fragilità nel cassetto perché ne abbiamo per l'appunto paura. Ma oggi parlandone scopriremo che, scusate l'ovvietà, non tutto il male viene per nuocere, la paura si può vincere, ci può anche far vincere. Ho bisogno come sempre della vostra collaborazione, quindi se volete raccontarci di che cosa avete paura, quando vi tremano le gambe o quando il coraggio vi dà forfè, parlatene con noi. Il confronto, come si dice, sarà la nostra forza all'800 24 00 24, ma soprattutto noi oggi possiamo contare su un grandissimo esperto che è tornato a trovarci, il professor Giampaolo Perna, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto ad Albese con Cassano e professore all'Università di Maastricht e a Miami. Professore, buongiorno e bentornato. Cara Nicoletta, la paura è spesso la nostra grande alleata che ci aiuta a superare i pericoli e affrontarli. Anche la sua ancella, l'ansia, è un altro aiuto che ci permette di anticipare le cose e di affrontarle al meglio. Ovviamente quando è troppa diventa un problema. Quindi è fondamentale imparare a riconoscerla, imparare a gestirla, imparare a controllarla e imparare a rendere qualcosa che potenzialmente ci è amica davvero amica e non nemica. Soprattutto evitare che la paura ci metta in gabbia, no? Ci faccia diventare schiavi. Allora adesso, professor Perna, io le do tempo fino a Deborah, 11:15, 11:18, 11:20. Anche perché abbiamo come dire, un'idea per fare un collegamento, naturalmente, visto che sono qua entrambi fisicamente, fra entrambi gli ospiti, un passaggio di testimone. Allora, le diamo il tempo giusto per toglierci la paura. Intanto ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. Invito i nostri naturalmente ascoltatori a intervenire, anche perché professor Perna, lei sostiene che alcune paure possono essere messe KO in tre mosse. Allora proviamo così, da casa ci possono dire se accettano l'idea, ci dicono la loro paura, lei proverà a analizzarle. Le paure sono tante, diverse, cambiano nel corso della vita. C'è la paura di andare in ascensore, c'è la paura di morire, di ammalarsi gravemente, poi c'è la paura che monta piano piano, quella che scoppia all'improvviso, quella che rimane costante, proprio come un fuoco che ci cucina lentamente, invece quella che si accende come un incendio. Di che indicazioni ha bisogno, professor Perna, per darci una mano? Vorrei essere molto concreta, perché di paure, no, con le paure ci confrontiamo tutti, e quindi è giusto imparare a prendere, non dico le distanze, ma no, a inquadrarne nel giusto modo. Bisogna valutarle sicuramente bene, questo è importante. Alcune domande agli ascoltatori, alcuni punti per riflettere. Vi spaventate troppo facilmente? Questa è una prima domanda importante. Avete paura di star male o perdere il controllo? Continuate a rimuginare tanto da non riuscire a addormentarvi? Avete paura di qualcosa in particolare? Evitate per paura. Quindi questi sono alcuni spunti di riflessione per voi ascoltatori. Allora, state pronti, come si dice, chiamateci, raccontateci che cosa vi fa paura, da cosa nasce la vostra paura. Potete anche raccontarcela via Twitter, 140 caratteri per raccontarci che cosa vi fa paura. Professore, spesso si pensa che la paura sia una forte ansia e il panico un tipo di paura particolarmente violento. Forse facciamo un po' di confusione, mi piacerebbe che lei ci aiutasse a chiarire questi aspetti. È proprio vero, è importante ricordarsi che sotto il termine paura, ansia, panico, eccetera, si nascondono cose diverse, quindi non facciamo di tutto un erbo un fascio, sono cose diverse, hanno sensi diversi, hanno funzioni diverse e sono indicative, quando sono esagerate, di patologie che sono differenti. Sono un po' come tre moschettieri, però non sono gemelli identici, sono moschettieri con diverse personalità e diverse funzioni. Professore, ci sono delle paure, le paure cambiano un po' nel corso della vita. Ci sono le paure di quando siamo bambini, certo. Delle paure, no? La classica paura del buio, che spesso i genitori, no, trascurano un po', sottovalutano. Poi ci sono, man mano che la vita, gli anni, no, accumuliamo esperienze e accumuliamo anche relazioni, e quindi apriamo il nostro cuore ad altri, abbiamo anche paura per gli altri, perché temiamo per la salute, no, perché o per il lavoro, per tanti aspetti della vita di chi ci sta vicino. E anche questa può essere considerata una paura, oppure una sorta di ansia protettiva nei confronti delle persone che amiamo. Ricordiamoci che noi abbiamo paura di quello che non conosciamo innanzitutto. Tanto più noi conosciamo qualche cosa, tanto più la paura scende. Quindi l'ignoranza è sicuramente un elemento cruciale nel costruire questo mostro che è l'ansia, che è la paura. Ovviamente bisogna anche ricordarsi che l'ansia e la paura hanno un senso molto preciso. Se io non ho paura, non sono coraggioso. Se io non sono paura, sono un incosciente, che è una cosa diversa. Se io ho paura e sono capace di governarla e comprenderla, allora posso essere coraggioso. Quindi il pauroso può essere coraggioso, non l'incosciente. Allora, vi ricordo gli spunti che ci ha suggerito il professor Perna. Vi spaventate troppo facilmente? Avete paura di star male o perdere il controllo? Continuate a rimuginare tanto da non riuscire ad addormentarvi? Ci sono dei momenti nel corso della giornata in cui le paure affiorano con maggiore lucidità, ad esempio il momento prima di andare a dormire o nel cuore della notte, tutto sembra molto più grande e pericoloso. Avete paura di qualche cosa in particolare? E andiamo subito allora da Luciano, che ci chiama dalla provincia di Salerno, ha accettato il nostro invito. Lo ringraziamo. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Siamo pronti. Come dicevo alla sua collega, è da un po' di tempo che io vado in piscina e ultimamente ho un timore, da precisare che non sono un tipo che ha altre paure. Ho momenti di paura quando sto nell'acqua alta, sicuramente non sull'acqua, sì. Praticamente questa mia paura ultimamente mi fa desistere da andare in piscina nuovamente. Certo. Ed è una paura che è nata nell'ultimo, è una paura recente, Luciano? Diciamo che è statuaria, perché non c'è sempre questo timore. Sì. No, le chiedevo se prima, ecco, perché ci sono delle paure, noi iniziamo ad aver paura per delle cose, delle situazioni che prima non ci lasciavano assolutamente indifferenti. Professor Perna, è utile per un per lei sapere l'oggetto della paura, quando si manifesta o che effetti produce su di noi? Quali sono i dettagli che per lei fanno la differenza? Il primo è quando è nata. Perché spesse volte una paura nasce quando una persona ha un'esperienza negativa, quindi qualcosa di neutro diventa neutro e si trasforma in paura quando ci capita qualcosa di negativo. Altre cose sono paure che in qualche maniera sono radicate nella nostra mente ed evoluzione. Esempio, la paura dell'acqua sicuramente ha una storia nel mondo. Questo perché se io mi trovo in mezzo al mare rischio di affogare, come pure la paura degli animali, dei ragni, eccetera. Però sapere il perché si è scatenata è molto importante. L'unico consiglio è quello di affrontarla. Quando abbiamo una paura e noi riusciamo gradualmente ad affrontarla, la smontiamo. La cosa invece che non dobbiamo fare è evitare. Evitare vuol dire rinforzare la paura. Allora, ci sono delle paure, dei tipi di paura che possono essere sconfitte in tre mosse. Il professor Perna ci spiegherà come fare, quindi affrontandole, ma in che modo. Restate con noi. Ci sono delle paure che noi proviamo, si generano proprio per l'ambiente, che è l'ambiente che ci circonda. Sicuramente Deborah ha dedicato tante puntate, la crisi ha cambiato, no? La nostra, ci ha reso tutti un pochino più paurosi. Vulnerabili, sì, assolutamente. Abbiamo già Giuseppe dalla provincia di Bari, ma noi dobbiamo andare a sentire il traffico. Esatto, anche quello qualche volta qualche paurina la scatena, non so che ne dite. A tra poco. È vero. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. La paura governa il genere umano. Il suo è il più vasto dei domini. Ti fa sbiancare come una candela, ti spacca gli occhi in due. Non c'è nulla nel creato più abbondante della paura. Come forza modellatrice è seconda solo alla natura stessa. Saul Bellow, scrittore. E riprendiamo il tema della prima parte di Cuore Denari. Parliamo di paura, paure piccole, paure più grandi, paure che ci bloccano, che ci portano a evitare situazioni, persone, luoghi, paure che ci tormentano, oppure paure che cerchiamo di nascondere ma che poi improvvisamente, basta poco, si riattivano. 800 24 00 24 per le vostre domande. Su Twitter Antonio ha accettato il nostro invito e ci ha scritto: ho paura di essere fregato, buggerato economicamente, in sostanza delle truffe. È abbastanza vicino, no, a Cuore Denari. Perché si sente fragile, insomma, da questo punto di vista. Sarebbe interessante indagare le motivazioni per cui proprio questo è l'aspetto che il nostro ascoltatore ha sollevato. Beh, sicuramente questa paura è funzionale spesso, perché ci aiuta a evitare di entrare nei trappoloni. Quindi in questo caso un po' di paura aiuta a evitare di cadere in mani sbagliate. Ricordiamoci che la paura è davvero, come diceva anche Saul Bellow, qualcosa di universale, di immenso e di potenzialmente fondamentale per la nostra vita. Se noi non abbiamo paura, moriamo subito. Quindi accogliamo la paura come un'alleata, fin quando non ci blocca e ci paralizza, fin quando non diventa una gabbia che non ci permette di esplorare il mondo. Allora, per darvi esempi concreti, con l'aiuto del professor Perna, abbiamo tratteggiato tre profili diversi. Allora, sentiamoli e cerchiamo un po' il nostro. Tratteggiamo dei profili, naturalmente non sono mai, no? Magari no. Perfetti, cioè uno non si può riconoscere in più profili, ma sono delle macro categorie che ci aiutano a riflettere un po' su di noi. Allora, li ascoltiamo, poi veloci chiamate, se ciascuno ha il suo profilo, per ciascun profilo potrebbe esserci potenzialmente la soluzione. Andiamo. Siete in allarme, sempre preoccupati di quello che potrebbe capitare. Ogni intoppo viene vissuto come un problema molto grande. Catastrofizzate tutti i potenziali pericoli e vivete sul filo del rasoio, tesi e con molta apprensività. Avete paura di qualche cosa di preciso presente nel mondo esterno? Animali, folla, aerei che cadono? E vi accorgete che questa paura non è ragionevole o è eccessiva rispetto al pericolo che correte? Siete costretti a costruire la vostra vita cercando di evitare di trovarvi di fronte alle situazioni di cui avete forte paura? Perdendo così importanti occasioni? Vi capita di avere un'improvvisa sensazione di malessere fisico con tachicardia, sbandamenti, mancanza di fiato, tremori, sudorazione che esplode rapidamente e in breve tempo senza una ragione apparente? Allora, A, B o C, in quale profilo vi siete riconosciuti? Scrivetecelo o chiamateci. Intanto andiamo a sentire Giuseppe dalla provincia di Bari e poi abbiamo Marco da Caserta. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'intervento, che avrei bisogno di fare una domanda al professor Perna. Eccolo qua. Possibile. Certo, vada avanti senza paura, no, che è qua con noi. No, io per fortuna non mi riconosco in nessuno dei tre degli esempi che avete fatto. L'unica cosa, diciamo, dunque qui la mia domanda, è che vabbè, diciamo, la problematica mia è il lavoro. Adesso che ho vissuto sempre situazioni, grazie a Dio, senza paura, per cui ho messo su famiglia, tutto quanto, ci siamo buttati io e mia moglie nel mondo del commercio, sì, senza avere, diciamo, nessuna forza economica, ce la siamo sudata, quello che abbiamo guadagnato. Ora tutto questo è venuto meno, però mi sono accorto, mentre andavo a un colloquio a Milano, dunque dove c'era la possibilità di trasferimento, che mia figlia mi ha fatto due paroline. E lì ho capito forse che trasmettevo della paura, dell'insicurezza, e ho iniziato a chiedermi se ho paura di rimanere, diciamo, così per strada, perché quella è la, diciamo, la possibilità di non rifarsi la paura del lavoro, del... di rimanere, certo, per strada, ecco, perché di non poter più copertura a certo, tutti i livelli, diciamo, certo, ecco. Giuseppe, di non poter provvedere alla sua famiglia. Professor Perna, è una paura purtroppo al giorno d'oggi molto comune? Se vuole iniziare a dare una risposta, poi continuiamo anche dopo il GR. Diamo una risposta rapida. Intanto il fatto che non si sia riconosciuto in quei tre profili è importante, perché sono tre profili che sono molto vicini a delle disturbi, a delle patologie. In questo caso in realtà è una paura assolutamente ragionevole, e il fatto tutto sommato di far vedere ai nostri figli, di insegnare che esiste la paura e l'incertezza, non è sbagliato. Il mondo non è perfetto, lo sappiamo anche noi, e forse il fatto che anche loro se ne accorgano li può aiutare un domani a affrontare meglio le situazioni. Quindi in questo caso è una paura sana, sì, fisiologica, possiamo dire, che mette, anche se produce un po' di ansia, ci mette nelle condizioni migliori per essere nel qui e ora e quindi affrontare la situazione. Poi io penso sempre che bisogna incrociare le dita, fare il possibile, e dobbiamo avere anche un po' di fortuna, no? Quella non guasta mai, un pizzichino insomma di assistenza, sì, da questo punto di vista. Continuate a chiamarci, a seguirci, noi vi aspettiamo subito dopo il GR, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracomitalia per competere nel mondo. Cuore e denari. Niente paura. Niente paura. Niente paura, ci pensa la vita, mi hanno detto così. Allora, niente paura, canta Ligabue, ma allora, la paura, con la paura ci confrontiamo tutti. Ne stiamo parlando con il professor Perna. Ultimi minuti, sono arrivate tantissime telefonate. Sicuramente vi invitiamo a scriverci anche delle mail, perché il tempo a nostra disposizione non permette di dare voce a tutti voi. Professor Perna, riprendiamo rapidamente i profili che hanno colpito i nostri ascoltatori e ci stanno chiedendo: io mi riconosco in quello A, sono grave, allora in quello B, C. Allora, il profilo A, sempre in allarme. Il profilo B, qualche cosa di preciso, hai paura di qualche cosa di preciso, e allora per evitare di avere paura eviti quella cosa. Il profilo C è l'ultimo, è quello di avere un'improvvisa sensazione di malessere in cui a sintomi psichici, emotivi diciamo, anche si associano anche sintomi fisici, e quindi tachicardia, dolore al torace, mancanza d'aria. Ho riassunto? Perfetto. Allora, diamo delle indicazioni per ciascuno di questo profilo. Agli ascoltatori che mi scrivono al 349-238-6666, sono grave? Io penso che non siamo gravi, professor Perna. Non siamo gravi. Non c'è da dire sono gravi, c'è da pensare che si può affrontare la situazione per uscirne, è corretto? Sì, non sono grave, ma se non faccio nulla vedrò la mia vita rovinata. Questo è il sunto della situazione in cui versano molti ansiosi. Allora, sicuramente se io ho una ansia generalizzata, cioè sono troppo pauroso di tutto, in questo caso devo cercare di confrontarmi con i dati di fatto, un po' come fosse in tribunale, devo dimostrare se le mie paure hanno una radice reale concreta. E la seconda cosa è usare le tecniche di rilassamento. Nel caso in cui abbia delle fobie, devo affrontarle. L'unica maniera per smontare una paura patologica è quella di affrontarla gradualmente. E ci sono le tre mosse, sì, per affrontare. Le tre mosse sono: prima di essere consapevole, di capire qual è la paura e il problema. Ho paura dei ragni, ho paura del buio, di volare, dell'ascensore. Esatto, ecco, esatto. Quindi paure belle concrete. No? La seconda è quella di affrontarla gradualmente, cioè io piano piano mi avvicino alla situazione che temo, e il terzo punto è di rimanere nella situazione fin quando l'ansia non scende. Ultima regola globale, non evitare. Evitare vuol dire incastrare la paura dentro di noi, quindi affrontarla e non evitare. Il terzo punto sono gli attacchi di panico. Allora, in questo caso anche questo bisogna affrontarlo. Ovviamente se queste tre condizioni sono molto forti bisogna ricordarsi che ci vuole un aiuto dato da uno psichiatra da una parte, da uno psicoterapeuta cognitivo-comportamentale dall'altro, che sono necessari. Il vero messaggio è, siccome siete tantissimi, vedo dalle sms, dalle mail veramente tanti, non mollate, dovete affrontarla perché potete tornare a essere liberi, liberi completamente. Elena ci chiama da Mantova, buongiorno, è un'occasione anche per ricordare come si manifesta un attacco di panico. Attenzione, ci sono anche dei segnali anticipatori. E quando diciamo anticipatori possono essere dei segnali che si manifestano, come ci ha detto tante volte il professor Perna, anche a distanza di giorni, di mesi, di settimane. Sì. Allora, Elena, buongiorno, chiudiamo con lei, benvenuta. Sì, grazie. Innanzitutto un saluto anche al dottor Perna. Io volevo portare la mia esperienza. Sono più di 25 anni che soffro di attacchi di panico, purtroppo io mi ci vedo pienamente nella terza categoria, quindi sì, malessere, disagio molto forte, e ho avuto un andamento sempre ciclico. Ci sono situazioni tipo la macchina e la macchina da sola, quindi la solitudine e una situazione un po' claustrofobica che favoriscono l'isolamento un po' dall'esterno, dal mondo, e quindi aumentano queste. Solo che volevo capire se è necessario capire, arrivare ad una consapevolezza, nel senso capire la motivazione per la quale si sviluppano queste cose, perché dopo tanti anni non ho ancora capito i motivi. Ci sono situazioni che peggiorano quando sono sotto stress, magari per altre motivazioni, però non c'è un motivo scatenante. Però l'attacco di panico si ripresenta. Professor Perna, messaggio conclusivo per le persone che si ritrovano, e sono tante nella condizione di Elena, e quindi vivono questo disagio che è il più fisico dei problemi, sì, psichici, vero? Perché appunto il fisico trasmette tutto questo disagio. Due messaggi sono: primo, l'attacco di panico spontaneo non ha una causa psicologica, mettiamolo in chiaro, è un meccanismo di allarme nel nostro cervello che funziona male, per cui andare a cercare delle cause psicologiche è un errore, bisogna curarlo e affrontarlo. Il secondo punto è, chiaramente nella vita lo stress gioca una partita, l'ambiente gioca una partita, le relazioni anche, però non sono in grado di scatenare attacchi di panico improvvisi inattesi. L'ultimo punto è: la signora da 25 anni ha che dei problemi, io da 25 anni che li studio. Io penso che se il panico è curato bene si può arrivare a una restituzione ad integro, tornare a star bene al 100%. Credo che chiunque sia ancora ingabbiato deve andare avanti a cercare, deve chiedere aiuto, deve eventualmente chiedere altri consulti, perché la storia delle persone ci dimostra che si può tornare a essere liberi. Non mollate. Grazie professor Perna. Me lo lasci qui ancora qualche minuto? Sì, volentieri, siamo qua apposta. Perché io volevo solo rispettare i tempi. No, tu hai fatto bene, ti ringrazio, il secondo tema che affrontiamo in realtà ci chiede anche un po' di conforto da parte sua, che ne dici? Molto volentieri, mi piace. Cambiamo argomento allora. La sua gente le diceva: non fidarti di quell'uomo, nella tenda l'hai accolto, lui del male ci farà, è un nemico amico uno straniero, ma la sorte porterà un pugnale, lui nasconde alle spalle e colpirà. Allora, sapete quanti sono gli stranieri presenti in Italia, Nicoletta? Non ho idea, però immagino tanti. 5,5 milioni, in pratica gli abitanti del Veneto e della Sicilia. In realtà abbiamo diversi osservatori che ci raccontano questa realtà italiana ed esprimono cifre diverse. Per l'Istat i dati sono aggiornati a gennaio 2014 e al suo ultimo rapporto Italia in cifre parliamo di 4.992.000 persone, di cui 3.784.000 con cittadinanza extracomunitaria. Abbiamo poi il dossier statistico Immigrazione 2014, questo è curato dal Centro Studi e Ricerca IDOS. Le persone con cittadinanza straniera presenti sul nostro territorio sono 5.364.000. Chiaro che ad ognuno bisognerebbe chiedere la modalità con cui ha condotto questi monitoraggi. Poi abbiamo Eurostat, questa è la fonte ufficiale dell'Unione Europea. In questo caso si parla di 5.695.000 immigrati regolari in Italia su una popolazione complessiva di 61.482.000 italiani, il che equivale a dire che in Italia il 9,5% dei residenti ha cittadinanza straniera, comunitaria o extracomunitaria che sia. Allora, sono moltissimi, sono in continuo aumento e per lo più questa crescita è dovuta a ragioni di ricongiungimento familiare, non solo a motivi di lavoro, perché oggi parliamo di stranieri a cuore denari nella parte di denari. Intanto perché sono molti quelli che ascoltano il nostro programma, ne abbiamo testimonianza diretta perché ci chiamano tantissimo, e perché viene lanciata proprio in questi giorni la nuova iniziativa del notariato per gli stranieri che soggiornano in Italia. Una guida per comprare casa, per accendere un mutuo, per avviare un'impresa. E noi oggi di questa parliamo con il notaio Domenico Cambareri, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione, che intanto salutiamo perché è venuto a trovarci qua. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a tutti voi. E allora potrete capire, Nicoletta, le ragioni per cui ho chiesto al professor Perna di rimanere con noi, no? L'italiano e la paura dello straniero. Ci fa molta paura quello che vediamo nei telegiornali ogni giorno, questi flussi migratori che continuano ad imperversare sulle nostre coste e non solo. Perché ci spaventano molto spesso così tanto, a parte le ragioni di pregiudizio e culturali che animano moltissimi italiani ancora purtroppo, professor Perna? Sono due fattori. Ciò che è diverso da noi sicuramente ci spaventa, perché è meno familiare. Il secondo punto è il fatto che noi siamo ignoranti riguardo a queste persone, quindi sono due elementi importanti. L'altro punto vero è che le esperienze negative che poi i mass media ci mostrano non aiutano a essere tranquilli. Io vi porto un esempio personale. Io insegno a Miami, vado spesso a Miami. Mi è capitato di andare al college dove ho visto una quantità di persone diverse, ma molto più diverse di quelle che vediamo noi qui. Ci si rende conto che sono gruppi completamente diversi, ma tutti si sentono americani alla stessa maniera. Quindi c'è un senso di appartenenza che in Italia purtroppo non c'è. Abbiamo anche, come dire, una condizione europea profondamente diversa. Sì. Già noi all'interno del nostro continente ci reputiamo, ognuno per ogni cittadinanza, appunto, profondamente diversa dall'altro, quindi figuriamoci poi l'integrazione all'interno del nostro paese. Comunque grazie professor Perna, insomma, per averci aiutato a dare questa lettura anche della paura dell'italiano legata anche perché è un aspetto su cui si può sicuramente lavorare. I nostri bambini nasceranno in una società multietnica più ricca, per più loro integrata, fortuna peraltro, e quindi no, perché proprio già delle elementari. I bambini non fanno differenze. Dovremmo. Bisogna essere come si dire, equilibrati. Vuol dire che noi dobbiamo guardare le persone con occhio diverso, ma anche chi viene da noi deve guardarci con quel rispetto che non sempre viene accordato. Quindi io credo che bisogna avere il giusto equilibrio in quello che sono le popolazioni diverse che si integrano. Certo, è come una partita tennis, no? Come scrive Potok, bisogna sempre lanciarsi la palla per questo gioco. Bisogna che tutti e due i giocatori si lancino la palla. Professor Perna, grazie. Grazie molte. Allora, peraltro, che ne siamo consapevoli o no, siamo tutti in continuo contatto con la popolazione degli stranieri italiani. Spesso sono il nostro fondamentale aiuto in casa, la persona che accudisce un nostro genitore anziano, comunque un familiare in difficoltà. Ci sono attorno a noi infermieri, pizzaioli, ristoratori, lavoratori edili, una fetta di economia italiana molto importante. Allora, senza, come ribadisco ancora, scomodare le polemiche sulla presenza degli irregolari e il drammatico fenomeno dei migranti, oggi focalizziamoci su coloro che sono pienamente integrati con la comunità italiana o che stanno tentando la piena integrazione ma che hanno ancora qualche difficoltà. possono andare a chiedere aiuto ai notai. Lo scopriamo oggi, notaio Cambareri. È così, ma quanti stranieri e per quali ragioni frequentano, praticano i vostri uffici, i vostri studi professionali? Sono tanti e sono in crescita. A proposito di numeri, è interessante fare questo paragone. Sono stati citati circa 5 milioni di stranieri in Italia. Sembra che siano circa 5 milioni gli stranieri e gli italiani all'estero. Fa pensare che noi italiani siamo andati all'estero e avremmo voluto essere accuditi, per così dire, meglio di quanto è accaduto in passato. Noi notai, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare la stessa cosa nei confronti degli stranieri, possibilmente meglio. La guida serve proprio ad aiutare chi ha grossissimi problemi di lingua innanzitutto e di conoscenza di quelle che sono le strutture istituzionali e giuridiche del nostro paese. Quindi questa guida nasce proprio dall'esigenza di andare incontro a quelli che passano sempre più frequentemente ormai nei nostri studi. I numeri che sono stati citati sono evidentemente espressivi. Ecco, se dovesse ritornare sul tema di quali tipi di argomenti affrontano con voi, quindi noi abbiamo parlato prima per esempio dell'avvio di impresa, ma anche banalmente della stipula di un rogito per comprare una casa, perché anche queste persone animano il mercato immobiliare in maniera consistente, e che cos'altro vengono a cercare? Quali altre informazioni? Sta accadendo quello che probabilmente accadrà fra qualche decennio e che descriveva prima il professor Perna. Noi non siamo ancora una società multiculturale perché le situazioni che sono state dipinte da noi non ci sono ancora, però stanno iniziando a realizzarsi. Lo straniero presente in Italia perché viene ai nostri studi? Perché comunque ha deciso di radicarsi da noi e quindi da una situazione di transizione classica, l'affitto, passa ad una situazione più stabile, acquisto, e quindi se acquisto devo fare il finanziamento e il mutuo e quindi vado comunque dal notaio. Ma la cosa interessante è che trasversalmente quasi tutte queste comunità, che sono quelle che noi abbiamo individuato come le maggiori presenti in Italia, che poi avremo occasione di menzionare, vanno dal notaio per comprare casa, ma vanno dal notaio anche per fare impresa. Incredibile, no, incredibile non tanto, è qualcosa invece di molto credibile e molto consistente nel nostro paese. Allora, come sempre abbiamo il numero verde che è a vostra totale disposizione. Potete chiamarci all'800 24 00 24, raccontateci se siete stranieri residenti in Italia da poco tempo e avete qualche questione aperta ma non sapete come gestirla. Se siete invece nel nostro paese da molto tempo e volete raccontarci il vostro vissuto, avete avviato una piccola impresa, quali sono le difficoltà maggiori con cui vi siete scontrati, lasciando magari da parte stamattina, ovviamente, lo ribadisco, le questioni di carattere culturale e sociale. Affrontiamo proprio le questioni pratiche. Vi siete rivolti ad un notaio, insomma, per chiedere che cosa e come avete gestito le vostre problematiche? Notaio Cambareri, la vostra guida parte da un'analisi sul tema della condizione giuridica dello straniero in Italia, no? E allora, quali sono i dati su questo più rilevanti dal vostro punto di vista? Possiamo tracciare un identikit? Sì, la cosa fondamentale da ricordare è, in relazione alla condizione giuridica, è che bisogna fare riferimento alla disciplina del diritto internazionale. La fonte primaria è l'eventuale trattato, l'eventuale convenzione. Primo fra tutti, da prendere in considerazione, l'Europa. Noi siamo in Europa, tra l'altro circa la metà degli stranieri presenti nel nostro territorio sono di altri paesi europei. E gli europei sono trattati, diciamo pure semplificando, allo stesso modo. Non ci sono problemi di verificare che lo straniero possa accedere a tutti i servizi a cui può accedere l'italiano. Dopodiché viene in campo la cosiddetta condizione di reciprocità e ulteriormente viene in campo il permesso di soggiorno. Questi sono, diciamo, i tre grandi blocchi che spiegano o aprono, diciamo, le porte all'accesso agli studi notarili, ma chiaramente ai servizi che il notaio fornisce per acquistare casa, per contrarre un mutuo o per fare una società. Quindi nessun problema per gli europei che hanno la stessa condizione degli italiani. Sono parificati allo stesso modo tutti coloro che regolarmente soggiornano nel nostro paese perché titolari di un permesso di soggiorno, di una carta di soggiorno, e comunque sono parificati agli italiani tutti coloro che si trovano nella cosiddetta condizione di reciprocità, cioè se io italiano vado in un paese all'estero e lì mi è consentito di fare una certa cosa, cioè di comprare ad esempio liberamente una casa, ebbene lo straniero di quel paese potrà fare la stessa cosa nel nostro. Per la richiesta, per esempio, del permesso di soggiorno, è possibile che uno straniero venga in uno studio notarile? No, questo no, deve rivolgersi naturalmente alle questure. Uffici preposti, insomma, alle questure di immigrazione. Uffici preposti, che sono sostanzialmente le questure del luogo di domicilio e di residenza dello straniero. Per quello che riguarda l'attività d'impresa, notaio cambariere, andiamo subito a questo aspetto perché vedo che sta già interessando moltissimi dei nostri ascoltatori. Vabbè, ci sono anche quelli che riconoscono la qualità del comportamento degli stranieri, per esempio, adesso non mi ritrovo più questo messaggio, ma c'era chi ci raccontava che aveva affittato per tantissimi anni l'appartamento di sua proprietà a persone straniere, non ha mai avuto nessun problema, appena affittato ad una famiglia italiana l'appartamento è stato distrutto. Vabbè, ma insomma queste sono cose che succedono e non hanno nulla a che fare con i paesi d'origine. Allora, abitare e fare impresa in Italia. Oggi proprio sulla stampa, peraltro, c'è un pezzo del nostro amico Walter Passerini. Grande. Che racconta, esatto, stranieri largo agli imprenditori di seconda generazione. In totale oggi sono 540.000 le aziende di immigrati in Italia, pari all'8,9% del tessuto produttivo nazionale, lo rivela uno studio di Unioncamere. E allora, che tipo di imprese vogliono costituire gli immigrati in Italia, notaio Cambariere, almeno secondo il vostro lavoro e la vostra esperienza? Ma sono diversificate sicuramente, ci sono grandi comunità che si dedicano all'edilizia, così come moltissime che si dedicano al commercio, così come all'importazione e all'esportazione dei loro prodotti. La cosa interessante è che se questi sono i grandi blocchi, comunque se la tendenza è di stabilizzarsi nel nostro paese, di intercettare i bisogni del nostro paese e di offrire servizi che il nostro paese richiede. Quindi sono, la sensazione che abbiamo è che sono aperti a qualunque tipo, certo, di attività in relazione naturalmente. Vengono ad informarsi proprio per sapere qual è la strada migliore da intraprendere. La forma giuridica prevalente di un cittadino straniero che fa imprese in Italia qual è? Sono piccole, grandi imprese? La forma giuridica prevalente dello straniero è sicuramente la ditta individuale. Se guardiamo i numeri sono elevatissimi e stanno crescendo fortemente in relazione alle imprese individuali italiane. Quindi partite IVA o SRL, che cos'altro? Fondamentalmente partita IVA, dopodiché comincia a nascere anche l'esigenza di piccole società. Naturalmente la guida che noi abbiamo predisposto ha un target che si riferisce non ai grandi investimenti, perché quelle sono operazioni di diversa natura, però gli stranieri molto spesso anche costituiscono delle società di natura familiare, ma non solo di natura familiare, perché poi si incontrano fra di loro e decidono di intraprendere un cammino imprenditoriale. Allora, non me ne stavo voglio... guardando questa guida abitare e fare imprese in Italia e allora a tanto, oltre 6, a guardarla noi possiamo anche regalarne alcune. Sì, ecco, questa mi piace. A pagina 6 nella scelta del notaio, nel capitoletto, leggo una cosa che mi piace molto, perché è cuore denari. Il notaio è un po' come il medico, uno tutela il patrimonio, l'altro la salute. Quindi vedi, no, guarda, ci copiano pure i notai. Adesso non so se qua ne hanno il diritto, dovremmo farci riconoscere, non lo so, un marchio brevettato, quello della nostra trasmissione. I bravi sono sempre copiati. Esatto, noi possiamo dire, no, non la possiamo dire, quella la diciamo, magari ci pensiamo dopo come dirla al meglio, perché a noi piace questa cosa qua, che ci copiano un po'. Adesso però bisogna andare a sentire. Sì, esatto, nessuna copiatura, no? sulle borse. L'originale, l'originalissima, Deborah Rosciani, in originale, esatto. Con i mercati. A tra poco. Cuore e denari. Il mutuo è quando chiedi soldi alla banca. E come funzionare? Come funzionare? Ancora, ve l'ho già spiegato. Allora, se tu volere i soldi dalla banca, loro dare i soldi e fare un piacere a te, e quei soldi valere 7-8%. Se tu invece avere i tuoi soldi e mettere in banca in conto corrente, fare un piacere alla banca, ma non si sa perché, a quel punto i soldi valere 1-1,5%. Ma allora, e se vuoi il terzo mondo? A volte effettivamente può essere davvero difficile spiegare certi meccanismi, per noi ormai naturali, se così si può dire, per un mutuo, ad una persona arrivata da lontano. Ecco perché allora il notariato italiano ha pensato la guida abitare e fare imprese in Italia, di cui stiamo parlando stamattina, con il notaio Domenico Cambariere, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Una guida tradotta in ben 13 lingue. Dove la possiamo trovare, notaio, per le persone che stamattina fossero rimaste incuriosite dal taglio particolare dato al nostro programma oggi, a parte quelle che abbiamo noi disponibili questa mattina e che rendiamo disponibili anche per i nostri ascoltatori, ma ne abbiamo tre. La guida è sicuramente facilmente e gratuitamente scaricabile dal nostro sito www.notariato.it. Sarà distribuita anche progressivamente nei consolati dei paesi dei quali ci siamo occupati. Li vorrei ricordare, la guida è stata tradotta oltre che in inglese, francese, spagnolo e tedesco per evidenti ragioni di diffusione di quelle lingue, anche per i paesi del Marocco, Albania, Cina, Ucraina, Filippine, Romania, India, Polonia, Moldavia, Tunisia e Bangladesh. Quindi comunità molto consistenti, insomma, sono le maggiori comunità presenti nel nostro paese, e progressivamente cercheremo di diffonderla per il tramite anche dei consolati con cui siamo entrati in contatto e delle organizzazioni di queste comunità. Ci tenevo anche a ricordare un'altra cosa: Notaio Cambareri, voi l'avete presentata non a caso proprio in questo fine settimana, dove tutti i notai italiani, quantomeno in molti, insomma, avete fatto qua un vostro consesso istituzionale. Sì, difatti è in corso a Milano in questi giorni il nostro 50° congresso, il congresso nazionale che teniamo ogni anno, alla presenza di circa 2000 notai, e nell'ambito di quelle iniziative è stata presentata anche questa guida. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, se volete raccontarci la vostra esperienza come straniero che vive in Italia da tanto, da poco, siete anche piccoli imprenditori o grandi imprenditori, quali sono le difficoltà che avete incontrato anche, che ne so, magari andando in banca nel tentativo di chiedere un mutuo, vi siete sentiti anche un po' discriminati per il fatto di essere stranieri? Insomma, la banca magari ha provato a proporvi delle condizioni differenti rispetto a quello che avrebbe potuto fare con un altro cliente. Raccontatecelo apertamente, perché tanto sono problemi con i quali naturalmente siamo abituati a fare i conti. Allora, Notaio Cambareri, ci sono due parole importantissime che usiamo spesso quando parliamo del rapporto con i cittadini stranieri: diritti e doveri, no? Anche nella relazione con il notaio queste parole hanno un significato, e nella guida diritti e doveri sono spiegati con attenzione. Sì, la regola primaria che vorrei ricordare è: il cittadino straniero che entra in uno studio notarile deve ed è trattato come un cittadino italiano, quindi i diritti e doveri dello straniero che si rivolge al notaio sono gli stessi diritti e doveri dell'italiano che si rivolge al notaio. Questa è una cosa particolarmente importante. Quali sono i diritti più semplici? Innanzitutto avere consulenza è la cosa fondamentale, perché capita abbastanza spesso che gli stranieri, per motivi linguistici, di poca conoscenza della nostra società, si rivolgano a soggetti intermediari che determinano molto spesso delle cattive informazioni ed un eccesso di costi. Allora, il primario consiglio è: andate pure negli studi notarili. L'esempio della richiesta del mutuo che è stato fatto prima è lampante: in Italia non c'è bisogno di avere un consulente, un mediatore per ottenere un finanziamento. Si va in banca, si possono ottenere poi molti consigli dalle associazioni dei consumatori, con cui noi collaboriamo moltissimo, e dai notai. Diritti principali: chiedere un preventivo ed avere il diritto di ottenerlo, essere ricevuti dal notaio ed avere consulenza. Laddove ci fosse necessità, è evidente che sarà un po' più gravoso, perché a volte bisognerà ricorrere ad un interprete, proprio affinché lo straniero abbia veramente coscienza di quello che fa e non ottenga, come spesso purtroppo accade, delle informazioni superficiali da mediatori che fanno questa operazione non in modo qualificato. Intanto possiamo sentire anche Costantino da Milano, che è un vostro collega, perché ci racconta una storia che sicuramente ci apre, no, a delle nuove riflessioni. Costantino, buongiorno. Buongiorno. Poi andremo anche ai doveri, naturalmente. Abbiamo parlato solamente i diritti, ma naturalmente bisogna presentarsi anche con le credenziali in regola. Vale per gli stranieri così come per noi, naturalmente. Costantino, benvenuto. Grazie, buongiorno. Chiamavo perché io svolgo la professione di commercialista. Ho iniziato a intrattenere rapporti con cittadini extracomunitari nei primi anni 2000, 2001, 2002, per cui porto un pochino la mia testimonianza di cittadini extracomunitari che prevalentemente iniziano la loro attività imprenditoriali con alle spalle un'attività di lavoro dipendente, e che, come dire, il primo soggetto al quale spesso si rivolgono per chiedere informazioni, per avere un po' di notizie su come avviare un'attività imprenditoriale, è il commercialista dell'azienda dalla quale provengono, sostanzialmente. Sì. Quindi noi, Sì, fate questo genere di servizio. Come è cambiato in questi ultimi anni, Costantino? È andata, quindi è sempre cresciuto questo rapporto? Si è modificata il profilo anche dello straniero che viene a chiedere una vostra consulenza? Così passiamo poi il commento al nostro notaio. È cresciuto anche notevolmente, quantomeno io parlo della realtà milanese. Sì. È cresciuto perché effettivamente... Nel cittadino extracomunitario quello che io ho potuto notare è una maggior propensione all'imprenditorialità. Vedi, come diceva Deborah, infatti. Vedi. Grazie Costantino. Grazie molte. Allora, peraltro parlavamo anche a microfoni spenti del fatto che i migliori pizzaioli italiani siano di origine egiziana. Può sembrare magari, come dire, una considerazione sulla quale molti non saranno d'accordo, invece qua a Milano lo abbiamo constatato molto apertamente. Detto questo, notaio Cambareri, il vostro ruolo è anche quello di collegare, no, la legislazione italiana, lei ce lo diceva prima, con quella degli altri paesi. In quali casi è particolarmente necessario? Ci fa qualche esempio concreto? Per esempio, non lo so, rapporti personali fra i coniugi. Sì, questo è un aspetto particolarmente importante perché bisogna cercare di mettere insieme le esigenze storiche che lo straniero si porta in Italia, mm-hmm. e quindi condizionamenti, in alcuni casi addirittura religiosi, perché non dimentichiamo che per alcuni paesi il diritto di quei paesi è condizionato dalle religioni, alcuni paesi hanno più religioni che condizionano diversamente il diritto, per cui arrivano in Italia vivendo una situazione familiare patrimoniale complessa e molto spesso diversa dalla nostra. Non necessariamente si applica il nostro diritto, perché la famiglia, come ha detto lei all'inizio, molto spesso è divisa, poi si riunisce, la maggiore presenza degli stranieri è determinata anche dalla riunione familiare. Tutto questo si trascina una possibile diversa sistemazione patrimoniale. Sono ancora più esplicito. I rapporti personali fra i coniugi sono importanti perché alla legge che regola i rapporti personali si aggancia anche quella che regola i rapporti patrimoniali, che può essere quella della cittadinanza, mm-hmm. piuttosto che quella della localizzazione, certo. della famiglia, che può essere anche i paesi diversi. Ecco allora che si apre la possibilità, entrando in uno studio notarile, di approfondire questo tema e consentire eventualmente a una nuova famiglia, io la chiamerei così perché quando cambi paese in qualche misura ridetermini i rapporti tra marito e moglie, ad esempio per alcuni paesi molto spesso c'è una tendenza all'intestazione dei beni solo ad uno dei coniugi, dopodiché qui magari la realtà lavorativa si diversifica perché magari si lavora entrambi, che sia in una piccola società o che sia con modalità diverse. Ecco che è l'occasione perché si abbia una consulenza specifica per ripartire i beni nell'ambito della famiglia, secondo quella che è stata la nostra classica evoluzione del diritto familiare patrimoniale italiano e soprattutto anche in una prospettiva di radicale stabilimento da noi successoria, perché poi dopo questi beni andranno ai figli. Può capitare quindi, notaio, che vengano da voi delle coppie di nazionalità diversa che chiedano informazioni proprio per capire come disciplinare al meglio il proprio regime patrimoniale, nel caso appunto si vogliano sposare queste persone, quindi non capiscono bene quali possano essere le ricadute di un'unione regolare chiaramente in Italia, però con tutto il, come dire, vissuto che si può portare una delle due persone qualora appunto una delle due fosse straniera. Certo, capita, purtroppo non capita spesso, ma l'occasione di questa guida è proprio questa. Si possono avere informazioni anche in questo senso, è veramente frequente il caso che persone di diversa cittadinanza si incontrino qui e costituiscano una famiglia. Ecco, lì è l'occasione con il notaio di approfondire come ripartire l'intestazione dei beni, sia in una prospettiva di relazione di coppia, che sia fuori dal matrimonio, che sia nel matrimonio, in una prospettiva anche dei figli. Certo, quindi insomma non solo badanti nel nostro paese, perché spesso quando parliamo di stranieri in Italia abbiamo una visione molto limitata, perché ci capita anche questo, no? Di questa collettività ormai che vive a pieno titolo nel nostro paese, e invece come avete sentito ci sono tantissimi casi molto differenti che vanno ben tenuti in considerazione, che hanno bisogno anche di supporto e di assistenza professionale, per cui 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Sarebbe carino sentire, adesso chiediamo ai ragazzi se lo pescano, Aziz, un 45enne che credo voglia chiamarci da Modena, che vuole raccontare che è in Italia da ben 26 anni, ha la cittadinanza, dopo 26 anni vorrei ben vedere, ma continuano a guardarlo ancora come uno straniero. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Cuore e denari. Mi chiamo Aisha, come una canzone. Sono la quarta di 3.000 persone su questo scoglio di buona speranza. Scelgo la vita, l'unica salvezza. Abitare e fare imprese in Italia è la guida del notariato che presentiamo questa mattina e viene presentata proprio a Milano in questi giorni, una guida rivolta alla popolazione degli stranieri in Italia, quelli che sono perfettamente integrati nel nostro paese, che magari hanno in mente di consolidare ulteriormente la loro presenza in Italia comprando una casa, avviando un'attività di impresa. È una guida tradotta in 13 lingue, questa mattina ne stiamo parlando non in tutte le lingue perché non ce la facciamo, con il notaio Domenico Cambarelli che è con noi. Allora notaio, adesso sentiremo appunto altri ascoltatori che sono pronti ad intervenire all'800240024. Veniamo al fare impresa proprio. Voi dite nella vostra guida, pagina 17, che negli ultimi anni è diventato molto più facile. Pronte, guarda come li interrogo e come stanno aprendo la pagina 17. Subito. Avviare un'impresa in Italia è diventato più semplice. Chiaramente stiamo parlando di un'impresa di piccole, piccolissime dimensioni. È altrettanto facile per una persona straniera, notaio Cambarelli. Parliamo senza peli sulla lingua. Sì. È lì che si dice. Esatto. È lì proprio sulla lingua. Si dice, ho detto il proverbio giusto, perché ti avventuravi in un traio, ho detto dove va. Stamattina è così, notaio. No, sicuramente non è facile, ma la grande barriera è sicuramente quella linguistica e il timore forse, in alcuni casi devo dire, perché ci sono stranieri che sono particolarmente avvezzi all'attività imprenditoriale perché così avviene già nei loro paesi, ma per molti c'è il timore di scontrarsi contro qualche cosa di troppo forte. Sappiamo bene che la burocrazia potente italiana non appare in tutto il mondo, per cui anche i più magari audaci in questo senso, quelli con la vocazione imprenditoriale più spiccata, magari qua si scoraggiano ugualmente, no? No, però si può dire che abbiamo dei bravi concorrenti in giro per il mondo. Ecco. Ci sono paesi che stanno vicino al Medio Oriente che ad esempio hanno una burocrazia molto più forte della nostra. E detto questo, però, indubbiamente le difficoltà ci sono, per cui superare la barriera linguistica è un problema purtroppo obiettivo, ma il messaggio che vogliamo dare è quello di avere la giusta consulenza. È evidente che non tutta la giusta consulenza può essere trovata presso uno studio notarile, un bravo fiscalista sicuramente può aiutare per molti altri aspetti e quindi il messaggio che si vuol dare con questa guida è che ci sono dei soggetti in Italia che sono preposti a fare questo, il notaio per alcune cose, ma vale allo stesso modo il fiscalista per altre. È bene andarci e chiedere questo aiuto e queste informazioni. Certo. Sicuramente nell'ambito commerciale sono molto pronti, li vediamo nelle nostre città, quanti negozi sono condotti appunto da famiglie cinesi ma anche di altre nazionalità. Aziz dalla provincia di Modena invece è un piccolo imprenditore. In che settore, Aziz? Buongiorno. Ed è proprio Aziz che avevo chiesto ai ragazzi di chiamare, perché lui dice adesso, chiaramente lo farà con un sorriso sulle labbra, questo ne sono certa, dice insomma da tanti anni in Italia ma mi sento sempre più o meno guardato come uno straniero anche se sono un piccolo imprenditore. Aziz, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Mi ha fatto venire il sorriso. Siamo qui per... Sì. La ringrazio per il coso, io vi ascolto sempre. Sono un appassionato di ascoltatore di Radio 24. Grazie. Grazie. Visto? E vi dico una cosa, io sono da 26 anni, sono qua, comunque mi trovo benissimo, ormai mi sento più italiano che marocchino. E ho lavorato sempre in questo settore, in stampaggio di materia plastica, e in questa azienda che sono diventato socio con il mio ex titolare. Erano due soci, uno è uscito in pensione e sono entrato io e un SRL, e mi trovo benissimo, non ho trovato nessuna difficoltà a dire la verità. L'unica cosa che è quello che ho detto, che sempre dove vai ti guardano sempre come lo straniero. Va bene che ci sono quelli che veramente, sai, una mela marcia ti deve fare, però io mi hanno fermato, le ho detto anche con le ragazze del centralino, sì. I carabinieri mi hanno chiesto un documento, ero in macchina, gli ho dato patente, libretto, mi fa un documento, le ho dato la carta d'identità, mi fa ma questa non vale niente, deve darmi il permesso di soggiorno. Io le ho detto guarda non ce l'ho, ho quella lì, mi fa, poi ha insistito, dopo le ho detto ma lei giri con il permesso di soggiorno, e dopo lui è rimasto male. Ah certo. Poi senti Azizze che parla con marocchino Modena, esatto. Anche l'hai notato anche tu. Azizze probabilmente le vive un po' quello che vivono tanti italiani in giro per il mondo, no? Per molti siamo gli italiani che rappresentano il made in Italy, le cose più belle del nostro paese, per altri continuiamo ancora ad essere un po' pizza, mandolino, mafia e poco altro. Che cosa ci vuole fare? Questa è un po' la limitazione che hanno tante persone in tutto il mondo, riguarda lo straniero in Italia come l'italiano che sta in giro appunto in altri paesi. Allora, tra l'altro volevo anche ricordare che la nostra collega Valentina Furlanetto fa la bella trasmissione che si chiama Indovina chi viene a cena, il sabato alle 23 su Radio 24. Ci sono tante storie bellissime di stranieri perfettamente integrati nel nostro paese che sono invitati a raccontare intanto una ricetta del loro paese di origine e poi raccontano anche la storia del loro paese ma anche la loro storia di integrazione in Italia. Sentiamo anche Alberto dalla provincia di Venezia che deve, però non abbiamo forse tempo perché stiamo chiudendo, voleva riportare un caso del loro studio che riguarda notaio, uno straniero, ma notaio Cambareri, preferisco concludere con lei perché ci mancano veramente 40 secondi. Un'ultima indicazione pratica utile per gli stranieri all'ascolto che possono trovare in questa guida, informazioni appunto molto pratiche perché di concretezza che si ha bisogno fondamentalmente. Nessuna paura di andare dal notaio. Esatto, e poi io prenderei la testimonianza di Aziz, nel senso che avere ed esibire un documento di identità e un permesso di soggiorno valido in determinate situazioni può essere spiacevole, ma se questo ti consente di godere di tutti i diritti di cui gode un italiano in Italia, io questa piccola fatica la farei, sapendo che un notaio ti tratterà come un italiano e così come speriamo qualunque altra istituzione faccia. Tanto d'altronde anche noi ci dobbiamo portare sempre dietro la patente, per cui abbiamo terminato. Grazie a tutti, a domani. A domani, buona giornata.